sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati e mettiti qui in mezzo. Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: domanda a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla? E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: tendi la tua mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere fra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Immaginiamo questa scena. Gesù è nella sinagoga, sta insegnando e vede quest'uomo che ha la mano destra paralizzata. E ovviamente Gesù voleva guarire tutti quanti, voleva vedere tutti felici, contenti. E gli scribi e farisei cercano di notare se magari Gesù cercava di guarire quest'uomo, perché volevano in tutti i modi trovare un capo di accusa. E quindi Gesù sapeva benissimo quello che questi scribi e farisei pensavano e quindi domanda a loro: è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla in giorno di sabato? E ovviamente che cosa potevano rispondere? La risposta dovrebbe essere ovvia: bisogna salvare una vita anche in giorno di sabato. Ma questi scribi e farisei erano molto attenti a osservare il sabato. Il sabato non si poteva fare alcun lavoro. E quindi non capiscono perché Gesù voglia fare operare questo miracolo il giorno di sabato. E ecco che tutto il Vangelo ci vuole testimoniare una cosa importante, che per essere in comunione con Gesù non basta soltanto ascoltarlo e sentirlo, ma bisogna anche tradurre in pratica e in comportamenti specifici questa nostra unione con il Signore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra fede deve diventare visibile attraverso le azioni. E oggi vorrei parlarvi del peccato di omissione. Ecco, talvolta noi pensiamo di fare il bene semplicemente perché osserviamo i comandamenti, ma ci sono molte, molte cose che non sono racchiuse nei comandamenti e che tuttavia siamo chiamate a fare, e il non farle comporta una mancanza, appunto il peccato di omissione. Se ci fate caso, quando noi facciamo diciamo, durante la Santa Messa chiediamo perdono al Signore, diciamo: perché ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Che cos'è un'omissione? È un bene che avremmo dovuto fare e che non abbiamo fatto per trascuratezza, per pigrizia, per timidezza, per interesse personale, per egoismo, per tutto quello che possiamo avere in mente. Allora oggi concentriamoci su questo e cerchiamo di vedere: ma io mi sento a posto solo perché magari rispetto tutti i comandamenti e però non vado a tante cose che potrei fare anche molto meglio? Ad esempio, facciamo degli esempi concreti. Se sono uno studente, che cosa dovrei fare? Non basta semplicemente che vado a lezioni e che presenzio a scuola, ma devo cercare di porre attenzione, devo cercare di interagire con l'insegnante, di rendere la lezione anche più divertente, anche più diciamo, fruttuosa per me e per gli altri. Allora, se sono un lavoratore, non basta che entro puntuale al lavoro, ma poi come svolgo il mio lavoro? Con competenza, con coscienziosità, con precisione, con attenzione? Quante volte nei posti di lavoro perdiamo tempo e rubiamo, è un modo di rubare. Allora, ecco, oggi concentriamoci. Quali sono i miei peccati di omissione e facciamo un proposito concreto per migliorare in questa direzione. Buona giornata.